Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Una madre, una figlia di Mahamat Saleh Harun al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Ben trovato. Ben trovati a voi. Raccontiamolo brevemente. Una madre, una figlia è l'ultimo film di uno dei maestri del cinema africano, Mahamat Saleh Harun, che era in concorso al Festival di Cannes lo scorso anno e racconta, come ci dice il titolo, la storia di una madre e di una figlia. Vivono in Chad, lei è una madre single che ha cresciuto da sola questa ragazza che ormai ha 15 anni, che ora scopre essere incinta. Però appunto siamo in Chad, un paese dalle leggi fortemente patriarcali, in cui anche la religione ha un peso molto forte e limita i diritti e le libertà individuali delle donne. Le due si trovano in una situazione complicata e sembra che abbiano tutto il mondo contro. Quello che succederà è che scopriranno quello che nella loro lingua si chiama linghi, ovvero il filo invisibile della solidarietà femminile che si materializzerà in un gruppo di donne, una sorella, un medico, che arriveranno silenziosamente in loro soccorso. È un grande film che ci ricorda che la solidarietà fra le donne è una delle forze più importanti. Tra l'altro, in quanto ragazza madre, lei non era ben vista nell'ambiente in cui vive. Esatto, perché la madre stessa ha avuto una vita molto complicata, perché essendo una madre single in quel contesto culturale specifico ha avuto una vita complicata. Ora non vuole che la figlia passi attraverso le stesse difficoltà che ha dovuto affrontare lei, e quindi il film è una grande storia d'amore, una grande storia di una madre che vuole un futuro migliore per la propria figlia. In questo il film trascende la sua specificità culturale, geografica, e diventa ovviamente una storia universale. Cosa avete apprezzato di questo lavoro? Innanzitutto, guardandolo, il film è una meraviglia di colori, di ambienti, di atmosfere, e poi ci siamo ricordati uno dei motivi per il quale ci piace il cinema, cioè essere incuriositi, essere portati in luoghi che non conosciamo. Guardandolo ci siamo chiesti quando è l'ultima volta che abbiamo visto un film africano, e un film africano in cui riusciamo perfettamente a starci dentro, a comprendere, a emozionarci. Quindi per noi c'è stato questo valore proprio della curiosità, della scoperta, che è stato fortissimo, irresistibile, e abbiamo pensato di volerlo condividere con il pubblico italiano. All'estero che circuitazione ha avuto? Il film è stato acquistato e distribuito in tutto il mondo, dalla Francia agli Stati Uniti all'Inghilterra. È appunto la forza di una storia universale che in fondo ci parla di un amore fra una madre e una figlia, e ancora una volta di solidarietà fra le donne. Quindi è il classico film che riesce a trovare apprezzamenti veramente in tutto il mondo. Di Mahamat Saleh Harun cos'altro sappiamo? Appunto, è un maestro del cinema africano, è uno che ha girato da ormai 20 anni in tutti i principali festival, è un habitué di Cannes, ma è stato anche premiato al Festival di Venezia con un altro suo film ormai qualche anno fa, che fu anche distribuito in Italia, si chiamava Dara, la stagione del perdono. Quindi per chi ancora non lo conoscesse è un'occasione per scoprire veramente una delle grandi voci del cinema contemporaneo. In quante sale? Uscirà in circa 30 sale, sperando poi di trovarne altre nelle settimane successive. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Potete cercare sui nostri social, Academy 2, sia su Facebook che su Instagram, e naturalmente sul nostro sito internet www.academy2.com. Il film Una madre, una figlia di Mahamat Saleh Harun al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi. con Alessandro De Simone di I Wonder Pictures, che distribuisce il film Ali and Ava, storia di un incontro di Clio Barnard, al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Ben trovato. Ciao Federico, bentrovati anche a tutti i radioascoltatori. Sì, da giovedì in sala con Ali and Ava, film inglese che in Inghilterra ha avuto un ottimo riscontro, è stato candidato anche a due BAFTA Awards, l'equivalente dell'Oscar per il cinema britannico, come miglior film britannico e per la migliore interpretazione maschile. Il film invece in Italia è stato presentato in anteprima al Bifest di Bari, dove ha avuto una bella accoglienza. È un film che sta viaggiando già con le sue gambe sotto molti punti di vista. Cosa si racconta? È la storia di uno strano incontro. Ali si occupa di gestire degli appartamenti in questa cittadina dello Yorkshire che si chiama Bradford, tipica città della provincia industriale britannica. Ava invece fa l'insegnante presso una delle scuole elementari della città. Si incontrano per puro caso e scoprono entrambi di avere una passione per la musica, anche se per generi completamente diversi, e nasce così un'amicizia che piano piano si trasforma in qualcos'altro. Sono due anime in qualche modo ferite, ma rispetto di questo genere del cinema britannico, che è di solito piuttosto drammatico, Ali and Ava è in realtà una commedia romantica a tutti gli effetti, anche divertente a tratti, e battezzata soprattutto da due fantastici interpreti, Adila Star e Claire Rushbrook, poco conosciuti fuori dal Regno Unito. In realtà Claire è una sorta di star della televisione britannica e Adila Star appunto è stato candidato come miglior attore ai BAFTA. Clio Barnard chiude con questo film una sorta di trilogia dello Yorkshire di cui lei è natia, una trilogia che ha raccontato questa regione che si trova a nord di Londra, ha raccontato anche lei, come hanno già fatto molti altri registi britannici, la forza della provincia inglese, che è completamente diversa dall'Inghilterra di Londra, è veramente un altro pianeta, e che è caratterizzato da persone che di fatto non si arrendono mai nei confronti della vita. Una zona in cui non è neanche facile l'incontro interetnico. Esatto, perché comunque la provincia inglese è molto inglese, ecco. Quindi questo è anche un elemento in più del film, la questione dell'inclusività, della tolleranza è ovviamente molto importante all'interno della storia, ma ripeto, la cosa assolutamente bella del film è proprio come nasce questo amore tra due persone peraltro non più giovanissime. Che fortuna ha avuto nel circuito estero? Il film è uscito nel Regno Unito circa un mese fa, comunque con una distribuzione non troppo ampia, ma è andato piuttosto bene. Soprattutto ha avuto delle ottime critiche un po' ovunque e credo che anche da noi troverà il suo pubblico. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni, i dettagli sulle sale? Su iwonderpictures.it.com, su tutti i canali social di I Wonder Pictures, su Facebook e su Instagram. Dovrebbe uscire in una cinquantina di copie il film, sperando che possano diventare anche di più nei giorni successivi. Quello che posso dire è ovviamente andate al cinema prima di tutto. Se proprio non volete andare a vedere Ali and Ava, andate a vedere una qualunque altra cosa al cinema, ce n'è bisogno in questo momento. Se andate a vedere Ali and Ava siamo più contenti. Il film Ali and Ava, storia di un incontro di Clio Barnard, al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro De Simone di I Wonder Pictures, che distribuisce il film. A presto! Ciao Federico! Con Lucy De Crescenzo di Europictures, che distribuisce il film Sundown di Michel Franco al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Ben trovata. Ben trovato, caro. Visto che vi ho fatto pure la sorpresa di Pasqua. Cosa si racconta in questo film? già dal nome Sundown racconta un po' il tramonto di un uomo. Diciamo che in realtà racconta la ragazza di una ricca famiglia inglese in Messico, in questa Acapulco bellissima, che però ha il suo lato oscuro, perché in effetti vediamo anche soldati in assetto di guerra sulla spiaggia, killer anche, e quindi tutto ciò succede anche sotto l'ombrellone. E se il film parte un po' in una dimensione messicana, riflessiva, anche lenta, poi dopo appunto ci sarà un twist importante, tu l'hai visto, e quindi il film diventa un thriller. Cosa ti ha convinto? Il fatto che Michel Franco fosse di nuovo in concorso dopo aver vinto appunto il Leone d'Argento con Nuovo Order, l'anno dopo di nuovo in concorso a Venezia, dico, ammazza che regista prolifico. Non ho avuto alcun dubbio quando ho visto il film, l'atmosfera, la fotografia, la recitazione incredibile di Tim Roth fatta di poche parole, molti sguardi, anche per carità la Charlotte Gainsbourg bravissima, e un po' tutto, e anche la storia mi ha fatto molto riflettere, insomma non ho avuto alcun dubbio a fare questa acquisizione e a portare questo film in Italia. All'estero cosa ha combinato? In America ancora deve uscire, però appunto hanno la distribuzione americana, è stato venduto in tutti i paesi, però io sono uno dei primi paesi appunto che è uscito, tant'è vero che sia Michel Franco che Tim Roth, come sai, appunto si sono messi a disposizione anche per le interviste, hanno fatto delle conferenze stampa online e insomma hanno coperto molto il film, il lancio. Particolarmente Tim Roth ci teneva veramente molto a questo suo ruolo minimalista, intimista, e ne ha parlato veramente, veramente a lungo. Che uscita sarà? Sarà un'uscita di una cinquantina di copie, come sempre, e un'uscita di qualità, soprattutto di città, del circuito cinema dove io appunto sono socia, e poco nei multisala, perché comunque questo è sempre un film da pubblico di qualità. Ci dai tutti i riferimenti web anche per sapere le sale? Le sale, insomma, a breve verrà pubblicato sia sul sito che le nostre pagine social tutto l'elenco sale, ma ovviamente se parliamo di Milano parliamo di Anteo Colosseo, se parliamo di Roma parliamo di Giulio, Greenwich, Mignon, insomma la tendenza è quella, le sale di quel pubblico che segue il cinema di qualità. Il film Sundown di Michel Franco al cinema da giovedì 14 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lucy De Crescenzo di Euro Pictures che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a te! Con il giornalista e critico cinematografico e selezionatore Maurizio Di Rienzo per presentare il film La figlia oscura, The Lost Daughter, di Maggie Gyllenhaal al cinema da giovedì 7 aprile 2022. Ben trovato Maurizio. Ciao, grazie Federico. Eccoci qui. Diamo qualche elemento di trama per chi ci ascolta. È quella mutandis, perché tra letteratura e cinema c'è sempre qualche differenza, discrasia, sottrazione, aggiunta, ma la trama è quella della ormai prolificamente rappresentata al cinema, non solo nelle serie, Elena Ferrante. Il film è tratto appunto dal romanzo La figlia oscura, e a proposito di questo già il titolo è The Lost Daughter, titolo in inglese perché il film è americano, sarebbe La figlia perduta letteralmente, e invece il romanzo La figlia oscura. È oscura e perduta, evidentemente, la maternità di questa protagonista, una docente universitaria americana di letteratura italiana, che è in vacanza in Grecia. E quello che alla signora viene in mente improvvisamente, di nuovo, con tutto il peso dicotomico, il peso ambiguo, contraddittorio che c'è stato nella sua vita, nella vita di molte madri, a proposito di indipendenza materna per la propria carriera e il rapporto con le figlie, è proprio il rapporto che lei ha avuto con queste due figlie, che adesso magari nella storia avranno 20-23 anni, ma soprattutto il rapporto che lei aveva con loro da bambine. E quindi Ecco che si alterna il presente, che è quello di una donna da sola in vacanza in un posto apparentemente idilliaco, in cui però arriva una famiglia americana di origine greca che è sicuramente chiassosa, che è sicuramente invadente, che è sicuramente volgare, probabilmente anche malavitosa, e quindi al fastidio iniziale fa seguito l'interesse da parte della protagonista nei confronti di queste due ragazze. Insomma, lei rivede in questa famiglia il filtro è possibile per i suoi ricordi, queste relazioni complesse avute con le figlie e soprattutto l'affermazione individuale, cioè della libertà propria artistica di carriera, osteggiata dal dover essere madre poi di due figlie. Quindi il film procede sotto questo aspetto della, chiamiamola, attualità e del ricordo. Il film è stato presentato al Festival di Venezia, ma ha vinto in maniera sorprendente, non voglio dire immeritata, la migliore sceneggiatura. Ma la giuria del Festival di Venezia dell'anno scorso era abbastanza creativa e ha vinto recentemente due Spirit Awards, quel cinema indipendente made in America che di solito assegna ogni anno a dei film che non sono legati a major o adesso a finanziamenti di piattaforme, e ha vinto appunto anche la miglior sceneggiatura e regia e miglior film, tre premi addirittura agli Spirit Awards. È l'opera prima di Maggie Gyllenhaal, che è sorella di Jack e figlia di un importante regista, ed è un'attrice che nella sua carriera ha sempre fatto un andirivieni fra progetti abbastanza ambiziosi, progetti indipendenti, film un po' più strutturati. Vogliamo ricordare per esempio qualche titolo tipo Secretary e Mona Lisa Smile di Mike Newell da una parte, e dall'altra parte ha fatto anche film di Nolan, Cavaliere Oscuro, il secondo Batman di Nolan. Ha lavorato bene con Jeff Bridges in Crazy Heart. Insomma, evidentemente fra gli studio, le major e un cinema indipendente si barcamena da sempre Maggie Gyllenhaal, che ha un volto forse più maturo sempre della sua età, un volto quasi dipinto, caratterizzato e caratterizzante, e che in questo caso da regista è stata capace di dirigere tutti gli attori, ma soprattutto Olivia Colman, la straordinaria attrice Oscar della Favorita, l'attrice di The Father, figlia di Anthony Hopkins e la regina di The Crown, grandissima attrice inglese venuta fuori negli ultimi 4-5 anni, a dirigerla accompagnando il talento della Colman in maniera proprio anche microscopica, attraverso una regia molto attenta all'ambiente, molto attenta ai corpi e alla presenza fisica nell'inquadratura, e dando valore agli sguardi, ai silenzi e addirittura al vento, alla sabbia, insomma una regia densa, con qualche forse ancora ingenuità, cioè la sua prima, però una regia sicuramente coinvolgente non solo al femminile. A questo ha giovato anche, credo, la direzione della fotografia molto complice di un'altra donna, la Hélène Luva, che è la direttrice della fotografia del cinema di Alice Rohrwacher, e anche dei due episodi dell'Amica Geniale, tratto da Elena Ferrante, la nostra serie televisiva, seconda stagione, due episodi diretti da Alice Rohrwacher. Quindi è un cerchio che si chiude da un punto di vista estetico e narrativo, credo. Posso aggiungere che anche per film del genere in questo momento continua a essere molto difficile l'impatto col botteghino italiano, mentre in America ha avuto un discreto impatto e in ogni caso una presenza anche ai premi Oscar, perché ha avuto tre candidature, poi due ai Golden Globe, due al BAFTA, che sono gli Oscar inglesi, e anche altre candidature ai Critics' Choice Award, a quelle del sindacato attori, il Satellite, insomma è un film di cui si è parlato, uno di quei film d'autore che viene fuori apparentemente dal nulla, ma che poi ha la sua strada, e adesso è una strada che inevitabilmente entra nella città del meccanismo, la chiamerei io, la strana città del meccanismo di distribuzione, che non è più quello di una volta, ma una volta era 3-4 anni fa, e quindi tutti i tempi di distribuzione e i modi sono cambiati, quindi anche la vita di questi film ha assunto un altro aspetto che non è solo quello del botteghino nudo e crudo. Il film La figlia oscura, The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, al cinema da giovedì 7 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al giornalista, critico cinematografico e selezionatore Maurizio Di Rienzo. A presto, alla prossima! Ciao, ciao, ciao, grazie. Con Luigi Pane, regista del film Un mondo in più, al cinema da martedì 19 aprile 2022, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie. Che racconto è? È una storia di formazione, una storia di un ragazzo che ha da gestire due legami di vita, che sono quelli di sangue, che non si possono scegliere e che lui dovrà provarsi a gestire, quindi per causa possiamo dire di forza maggiore, e invece dall'altra i legami culturali, che sono legami che Diego, il protagonista del film, riscopre su questo suo cammino, in questo ambiente di questa periferia romana, dove lui, ragazzo napoletano di 18 anni, si trova improvvisamente catapultato dopo la morte della madre. Come nasce tutto? In maniera abbastanza spontanea, quello che volevo raccontare era proprio questo: viviamo in un mondo in cui molto spesso abbiamo un tale caos di informazioni che forse molto spesso ci arrivano in una maniera talmente dirompente, con un numero così grande di nozioni, che è difficile concentrarci su cosa realmente serve per completare il nostro cammino. Volevo raccontare quindi la storia di questo ragazzo di 18 anni che, a causa di una grande difficoltà che ha nella vita, cioè perdere la madre, si ritrova in un momento di riflessione in cui, in una difficoltà, riesce a trovare una grandissima opportunità. Lui, insieme al padre Franco, si trasferiscono in un difficile quartiere della periferia romana, dove ci sono molti disordini dovuti soprattutto a uno scontro nel loro quartiere tra un gruppo di residenti che attaccano un gruppo di africani perché considerati colpevoli di essere occupanti di alcuni alloggi destinati ai residenti del quartiere. Eppure Franco e Diego, soprattutto Diego, Franco e il padre, cominciano a sentirsi più a loro agio con gli africani che non con i residenti stessi del quartiere, perché anche loro in fondo si sentono un po' migranti, anche loro si sentono fuori posto, anche loro si sentono con questa necessità di dover costruire il loro mondo nuovo. E quindi è un po' questa la riflessione che mi ha spinto inizialmente a voler scrivere questa storia. Cioè, oggi, ripeto, siamo bombardati da una serie di nozioni, la nostra identità qual è? Cosa ci serve noi per restare umani? Ed è una domanda che ci possiamo porre soprattutto in questo brutto periodo che stiamo vivendo, noto molto spesso un grande, grande disinteresse. In fase di scrittura ti sei agganciato anche alla cronaca? Assolutamente sì, perché per raccontare questa storia ho fatto proprio una lunga ricerca su vari episodi di cronaca, e alcuni di essi poi mi hanno molto molto colpito. Diciamo, tutta la situazione che io descrivo del quartiere, con i migranti un po' maltrattati dai residenti a causa di questi alloggi occupati, è una cosa che tra il 2018 e il 2019, che sono state proprio le fasi di scrittura della sceneggiatura, erano qui a Roma quasi all'ordine del giorno. Ho cercato di vedere cosa mi accadeva intorno e ho cercato poi di costruirci su una storia. Quindi il film è assolutamente parte da fatti di cronaca, che ovviamente sono stati rimaneggiati per finzione, ma sì, c'è tantissima cronaca nel film. Anche riguardo ad un episodio che avviene a Diego, il protagonista, che si rifà in parte ad un episodio avvenuto, mi sembra proprio nel 2019, a Torre Maura, dove un ragazzino ha cominciato a sfidare un po' di poteri forti, senza aver paura di essere ripreso da telecamere e telefonini, non avendo paura di esprimere il suo pensiero, che in quel momento era assolutamente non allineato con le persone che stavano conducendo il gioco. Ci hanno fatto anche, apro parentesi, un manifesto, non metta bene che no. Esatto, è quello lì. Per la distribuzione, che scelte avete fatto? Abbiamo ricevuto successivamente alle riprese del film la qualifica ad SE del Ministero, avevamo già preso il contributo selettivo e poi è arrivata anche quest'altra bella notizia che ci ha definito film ad SE. Noi avevamo in programma di girare il film ad aprile 2020, poi purtroppo per ovvi motivi non ci siamo riusciti, e quando abbiamo deciso subito dopo il primo confinamento, nonostante moltissime difficoltà produttive sopraggiunte perché non si poteva più girare il film nella stessa maniera purtroppo in cui avevamo pensato di girarlo prima, insieme al produttore abbiamo fatto un grande sforzo e abbiamo deciso comunque di portare a termine il film. Siamo infatti stati uno dei primi set che hanno ripreso a girare ad agosto 2020, facendo però un cambio di strategia distributiva, perché oggi il circuito delle sale è molto molto cambiato. Non è più quello di un tempo, purtroppo c'è ancora una certa resistenza del pubblico a tornare nelle sale, quindi abbiamo deciso, anche appunto ricollegandomi all'inizio con la qualifica di film del SE, di muoverci autonomamente con una distribuzione riguardo alla sala in alcuni cinema selezionati. Noi usciamo il 19 con una proiezione al Farnese a Roma, ma abbiamo fatto già due anteprime che sono andate molto bene, e quindi inizieremo questo percorso, ci stiamo un po' muovendo autonomamente, anche perché non vogliamo arrenderci subito alla piattaforma, e quindi ci teniamo moltissimo che questo film venga visto nelle sale. Molto spesso ci sono anche io a presenziare al film, alcune volte gli attori, quindi stiamo facendo un percorso che si basa più sulla qualità che sulla quantità. So che il produttore aveva avuto moltissime offerte di distributori per un'uscita tecnica, ma abbiamo preferito invece di fare un percorso che cerca di riportare un po' il pubblico in sala. Tra gli interpreti, alcuni volti noti dello spettacolo napoletano hanno aderito subito al progetto? Sì, ed è stata una grande soddisfazione per me, perché tutti gli attori che si vedono nel film, i protagonisti, sono Francesco Di Leva, Denis Capezza, Gigio Morra, Renato Carpentieri e Francesco Ferrante, che per la prima volta sullo schermo, sono stati tutti loro, senza essere nessuno escluso, tutte le mie prime scelte del film. Anzi, io quando scrivevo il film io già pensavo ai loro volti, quindi per me è stata una grandissima soddisfazione riuscire a lavorare con loro, soprattutto in questo periodo in cui sono un po' di parte. Credo che gli attori napoletani al momento siano tra i migliori al mondo, assolutamente. Per saperne di più, soprattutto riguardo alle sale, ci dai tutti i riferimenti web? C'è la mia pagina social e poi la pagina della produzione, che è Play Entertainment. Il film Un mondo in più, al cinema da martedì 19 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Luigi Pano. Grazie a voi. Con Marco Speroni, regista del documentario A Declaration of Love, in tour da mercoledì 20 aprile 2022, ben trovato. Ciao. Che racconto è? Il documentario racconta la storia di Curtis McCarthy, un uomo che aveva 22 anni quando fu dichiarato colpevole per un omicidio che non aveva commesso. Siamo a Oklahoma City, e fece nelle prigioni di Oklahoma ben 22 anni, di cui 19 nel bacio della morte. Tra parentesi, nel bacio della morte in Oklahoma City significa stare sottoterra, cioè quindi sei in un basement dove non vedi la luce, non hai contatti fisici di alcun tipo con nessuno, quindi sei veramente isolato in un modo crudo, crudelissimo. Nel 2007 è stato dichiarato innocente, perché ci fu un caso clamoroso di corruzione del sistema legale. Curtis è una vittima di questa corruzione, cioè lui fu incolpato pur essendo innocente perché dovevano manipolare delle prove. Il documentario però non è un documentario investigativo, non è un manifesto contro la pena di morte, perché non è questa l'intenzione. L'intenzione è nata nel momento in cui ho iniziato ad avere dei rapporti su Messenger, in questo caso con Curtis, trovandolo un uomo fondamentalmente perso, perduto, sperduto e dolentemente anche abbandonato a se stesso, diventato homeless, diventato drug user, abbandonato e rifiutato dalla società per quanto innocente, perché la società poi è molto dura in questo, è molto spietata, quindi se tu sei stato in qualche modo comunque condannato è difficile che ritorni. Quindi l'idea fin dall'inizio era quella di raccontare l'intimità di questo uomo, cioè il lato umano, quello che è accaduto dal 2007 in poi, quello che significa essere liberi in un'America che precedentemente ti ha condannato a morte. E questo è stato un po' la chiave di volta per cercare di realizzare un documentario, da un lato diverso dal punto di vista narrativo, ma da un lato anche molto molto empatico, estremamente emotivo nei confronti di questo uomo. Come l'hai strutturato? Fondamentalmente abbiamo una persona, che è Curtis, il nostro uomo, che ci racconta tante cose della sua vita, tante cose che ha vissuto nella sua esperienza carceraria, ma anche altre cose che fanno parte proprio della sua umanità, della sua mente, dei suoi ricordi, del labirinto che c'è nella sua mente, perché uscendo ovviamente dopo 19 anni di bacio della morte è uscito col PTSD, che sarebbe post-traumatic stress disorder, quindi è uscito ammalato, con dei problemi anche proprio a livello neurologico, e quindi la struttura è fondamentalmente legata a questo uomo che ci racconta la sua storia e la sua vita, e però intrecciandosi con l'altro protagonista, che è l'America, Oklahoma City, con le sue modalità, con le sue peculiarità, che sono quelle proprio dell'America più conservatrice e comunque di un'America in cui lui si ritrova totalmente perso e sperduto. Questi due elementi narrativi si intrecciano in continuazione e creano comunque un ritmo e un impatto emotivo che è sempre più in crescendo. E questo uomo che ti racconta la sua vita in un primissimissimo piano, sempre in leggero movimento su di lui, come per cercare sempre un'emozione, uno sguardo in macchina, una lacrima, un moto di rabbia, che alla fine è una grande empatia con il pubblico, laddove ogni volta l'ho presentato nei cinema sono rimasto colpito da quanto le persone restano coinvolte umanamente e emotivamente. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Ci sono due riferimenti. Uno è la mia pagina Facebook, che corrisponde esattamente al mio nome ed è una pagina aperta a chiunque, e lì si possono vedere tutti i festival a cui è andato, i premi che ha avuto. Poi c'è la pagina Facebook del distributore italiano Open DDB, cioè Domodossola Bologna, e anche lì adesso c'è una grande campagna, perché dal 20 di aprile iniziamo ad andare nei cinema. La prima proiezione sarà a Bologna il 20 di aprile. E poi c'è il sito della produzione, che è www.nacne.eu. Il documentario A Declaration of Love, in tour da mercoledì 20 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Speroni. A presto! Ciao, grazie. Con Ilaria Iovine e Roberto Mariotti per presentare il loro documentario Telling My Son's Land, in tour da mercoledì 20 aprile 2022. Ben trovati. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Che storia è questa? È una storia al femminile con protagonista una giovane giornalista freelance italiana di Matera, Nancy Portia, che abbiamo conosciuto nell'ormai lontano 2017, quando fu premiata dall'Archivio di Sarmo con il premio annuale appunto delle Colombe d'Oro per la pace. La conoscemmo nel 2017, appunto in questa occasione scattò qualcosa durante quella premiazione, per cui da autori e registi altrettanto freelance, altrettanto indipendenti, ci siamo avvicinati a lei per proporle un film che andasse a seguire il suo lavoro da indipendente nel settore giornalistico, insomma, che già appunto è sempre stato un settore molto delicato, lo è tutt'oggi ancora di più, ma che appunto ci interessava indagare. Soprattutto poi quando era un giornalismo estero e dedito insomma alle varie front line. Quindi poi in una prima chiacchierata con lei ci rivelò la sua gravidanza legata comunque al suo lungo soggiorno, cioè si è proprio trasferita in Libia per anni, e quindi questo profilo femminile per questo documentario, che voleva essere comunque narrativo per andare a profilare appunto una figura di donna, ci è sembrato ancora più completo, perché andava a raccontare, indagare, al di là della professione giornalistica, sia la storia con la S maiuscola che poi una storia strettamente privata. E questo appunto ci dava la possibilità, come poi è stato sempre anche l'obiettivo dei nostri anche precedenti film, di andare a tratteggiare dei personaggi a 360 gradi. Nella fattispecie avere una giornalista di guerra che magari nell'immaginario, no, fa sempre pensare a una sorta di Tomb Raider, eccetera, e andare invece a vedere quali sono le dinamiche anche più intime, al di là del discorso maternità, però anche più personali, del fare giornalistico, dello scrivere da freelance in territori come la Libia, perché appunto per quanto riguarda il nostro film e la figura di Nancy Portia si parla della Libia post-Gheddafi, quindi di un paese martoriato da una guerra che ha destituito appunto un dittatore pluriennale e poi abbandonata a anni e anni di guerra civile che ancora non si sono conclusi. Quindi ecco, un territorio caldo in cui lei ha appunto da freelance ha deciso di trasferirsi per fare del giornalismo sul campo e non appunto l'inviata rinchiusa in camera d'albergo, e da questa immersione sul campo è nata una trasformazione sia della sua professione e poi anche della sua vita, perché poi lì si è innamorata, ha deciso di mettere al mondo un figlio, immergendosi sempre di più in quella storia che poi l'ha portata a quell'inchiesta che poi appunto le ha garantito anche una certa notorietà a livello internazionale, l'ha poi costretta anche a lasciare il paese perché non era più al sicuro, insomma, quindi parlo dell'inchiesta che fece sulla collusione tra mafia e la Guardia Costiera Libica, quindi nel traffico dei migranti. Che forma distributiva avete scelto? Fin da subito per questo film abbiamo cercato una distribuzione vera e propria, cioè una società di distribuzione che ci desse una mano, perché per quanto riguarda i nostri precedenti lavori, indipendenti al 100%, anche nella fase distributiva. In questo caso ci sembrava più giusto per questo film rivolgerci a dei professionisti, perché anche i temi trattati, che sono comunque internazionali come genere, da soli non ci sentivamo in grado di affrontare questa cosa. Quindi tra le varie opzioni, alla fine siamo approdati alla Blue Penguin, che è stata entusiasta fin dal principio per questo progetto, e quindi insieme a loro abbiamo cominciato tutto l'iter festivaliero e appunto adesso l'esame e poi le vendite internazionali. Ci date anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sul sito della Blue Penguin, poi anche sulla pagina social della nostra sigla Ilia Film, una sigla appunto con cui abbiamo sempre realizzato i nostri documentari, film e progetti audiovisivi sempre indipendenti. Anche sulla pagina Ilia Film mettiamo sempre ogni data di uscita, così come abbiamo messo anche le uscite festivaliere a partire dal Biogra Film, poi i Dig Awards, il Matera Film Festival, Sguardi Altrove, eccetera. Quindi aggiorniamo sia sulla pagina distribuzione che sulla nostra, insomma, tutte le varie tappe. Il periodo è abbastanza complesso per le sale e quindi per la distribuzione di un documentario indipendente è ancora più dura, però ecco, questo è per cui c'è da combattere anche per la distribuzione di questo tipo di prodotti, almeno ecco, in attesa di vederlo poi su piattaforme o in emittenti. Il documentario Telling My Son's Land in tour da mercoledì 20 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ai registi Ilaria Iovine e Roberto Mariotti. Grazie Federico, grazie a voi. Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori. Con Fahim Buyan, co-regista di Bangla, la serie, su RaiPlay dal 13 aprile e poi in onda su Rai 3 dal 27 aprile al 6 maggio 2022. Ben trovato! Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Raccontiamo un po' di cosa si tratta. Il racconto parla di un ragazzo di seconda generazione che si innamora di una ragazza italiana e sono agli antipodi, perché lui abita in un quartiere multiculturale e segue le regole dei precetti islamici e fondamentalmente deve trovare un equilibrio dal fatto che si è innamorato di Asia, la co-protagonista, e lui non può violare una delle leggi più inviolabili, che è quella del sesso prima del matrimonio. E quindi la serie va ad analizzare, oltre che appunto a questa commedia romantica, questa storia d'amore, va ad analizzare con diverse sfumature anche diversi punti di vista. Se nel film si analizzava semplicemente il punto di vista di Fahim, qui abbiamo la possibilità di poter spaziare anche da un punto di vista femminile, perché ci sarà l'introduzione di due nuovi personaggi più il punto di vista di Asia, e in più anche analizzare il punto di vista dei genitori, quindi le prime generazioni. Quindi ci sono diverse sfumature che trattano diverse tematiche. In che rapporto è con il tuo film d'esordio nel film di finzione? La storia la ricalca oppure ci sono dei cambiamenti? Rispetto al film, la scrittura della serie si è basata partendo dal finale del film, però l'idea è appunto di staccarlo, nel senso che pure per chi non avesse mai visto il film potesse direttamente vedere la serie. diciamo che è paradossalmente un sequel che però si stacca un po' dal film, quindi l'idea era di partire da lì, però andando a trattare argomenti più delicati e quindi cercare di dare anche un tono un po' più di serietà alla serie. Com'è stato il lavoro con la regia a quattro mani? È stato molto interessante, poi soprattutto su dei progetti così grandi la cosa più importante è delegare, quindi allargare il team e quindi cercare di trovare una soluzione comune, no? Quindi fondamentalmente più menti ci sono, più soluzioni ci sono. Quindi no, con Emanuele Scheringi la regia è stata sicuramente super performante. Con il cast per fortuna è stato tutto molto più semplice perché abbiamo riconfermato tutte le persone che stavano all'interno del film e quindi per fortuna si conoscono Vita e Morte e Miracoli e quindi dove si poteva abbiamo cercato di valorizzare quelle che sono le doti attoriali dei vari personaggi, quindi anche con loro c'è stata una super alchimia. Come era nato il progetto della serie? Nasce in verità proprio come serie, perché qua dopo che è stato mandato il servizio su Nemo Nessuno Escluso, in onda su Rai 2, e poi quando sono stato chiamato io dalla Fandango, allora all'inizio Emanuele Scheringi mi aveva proposto una serie, però Laura Paolucci, la produttrice di Fandango, e Domenico Procacci mi avevano proposto di partire con un piccolo film, per poi poterlo vendere come una serie, quindi è partito da lì, fin dall'inizio. Quali sono gli elementi su cui hai centrato più l'attenzione, avendo a disposizione 4 ore rispetto al film d'esordio? Hai detto dei personaggi a cui è stato dato più risalto, però nel complesso su quali punti hai focalizzato più l'attenzione? Io ho cercato di esaltare sicuramente il punto di vista delle seconde generazioni che hanno necessità di una voce proprio perché vivono fra due culture e spesso hanno difficoltà, no, a riconoscersi, no? Quindi cercare di far vedere le diverse sfaccettature. Abbiamo cercato di dare anche peso anche dal punto di vista culturale, abbiamo voluto raccontare il mese del Ramadan, che è il mese del digiuno. Quindi anche dal terzo episodio in poi appunto sarà un po' un fil rouge, un filo conduttore che ci porterà fino al 7° e all'8° episodio. Quindi diciamo analizzare di più nel profondo cosa si c'era veramente dietro questi giovani ragazzi di seconda generazione. Proprio le seconde generazioni come avevano accolto il tuo film? Bene, bene, infatti io sono molto orgoglioso di questo, che in qualche maniera si sono sentiti rappresentati, per me è solo un privilegio, ecco, quindi questo fa molto piacere, speriamo di rispettare le aspettative anche sulla serie. Bangla, la serie, su Rai Play dal 13 aprile 2022 e poi su Rai 3 dal 27 aprile al 6 maggio, un episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Fahim Buyan. A presto! Ciao a tutti! Con Valentina Valentini, curatrice della mostra Il Video Rende Felici, Videoarte in Italia, a Roma, Palazzo delle Esposizioni e Galleria d'Arte Moderna dal 12 aprile al 4 settembre 2022. Ben trovata. Grazie, buonasera Federico. Raccontami un po'. Io penso che il titolo della mostra incuriosisca e lascia anche un po' perplessi. Che vuol dire il video rende felici? Quindi vorrei partire dal titolo di questa mostra. La videoarte nasce nei primi anni 70 ed era un periodo in cui c'erano ancora molte utopie, molti movimenti antagonisti e il video si prestava, cioè era uno strumento leggero, un portapac, e quindi essendo leggero era disponibile per essere usato facilmente dai movimenti femministi, dai movimenti di controinformazione, quindi suscitava delle utopie di indipendenza dall'industria culturale, indipendenza dai mass media, dalla televisione, e quindi dava l'idea che si poteva fare un'informazione autonoma e indipendente, dava l'idea che questo strumento poteva favorire una sperimentazione sull'immagine, e il suono, proprio perché i laboratori, i dispositivi erano molto più domestici e quindi più diffusi che non le grandi holding della comunicazione. E in più il video dava la possibilità di suscitare partecipazione, perché c'era la possibilità, c'era il mezzo proprio della creatività diffusa, della creatività popolare, insomma, quindi in questo senso risvegliare quelle utopie, insomma, che nei primi anni 70 hanno accompagnato l'uso di questo mezzo, di questo dispositivo. È stato quello il periodo d'oro in Italia? L'Italia è stata all'avanguardia, cioè noi dimentichiamo spesso che l'Italia è stata foriera sempre di grandi sperimentazioni, che poi non è riuscita a consolidarle in strutture, ma l'Italia con Alberto Grifi, per esempio, con Silvano Agosti, con Lombardi Laiolo, cito insomma tre nomi che hanno utilizzato il video sia in senso appunto di controinformazione, le lotte per la casa, le lotte per la salute, le lotte studentesche, tutto il movimento del 68 è stato documentato in video da Silvano Agosti. Alberto Grifi ha fatto dei video sulle lotte in carcere, quindi movimenti di opposizione, movimenti di lotta, ma il video è stato anche uno strumento di creatività. Ricordo un film, Anna, di Grifi Sarcelli, è stato il primo film girato in video, poi ripassato in pellicola perché i cinema non erano attrezzati a proiettare il magnetico, e Anna è stata una produzione incredibilmente innovativa perché registrava in tempo reale la vita di una ragazza che aspettava un bambino e non aveva fissa dimora, è trovata a Piazza Navona, quindi questo mezzo intimo, familiare, nel senso che poteva entrare nella vita quotidiana senza grandi macchinari, no? Senza essere ingombrante, invadente, quindi accogliere dei particolari della quotidianità in modo da alimentare un aspetto diaristico della narrazione. Quindi abbiamo tanti esempi che in mostra è possibile conoscere, i centri di produzione. In Italia i privati hanno dato origine a un repertorio incredibilmente interessante di video d'artista. Ne cito Artex22, fondato un centro di produzione dove un artista come Bill Viola, per fare un esempio, ha fatto il direttore tecnico per 2 anni, e dove tutti gli artisti della transavanguardia, da Chia, Clementi, dell'arte povera, Cunellis, eccetera, hanno sperimentato l'unico video della loro vita, nel senso invitati da Maria Gloria Conti Bicocchi a produrre un video, dopodiché non l'hanno più fatto perché magari l'uso di queste tecnologie non entrava nei loro interessi. E Maria Gloria Conti Bicocchi ha prodotto un centinaio di video con artisti nazionali e internazionali, da Daniel Duren, dicevo prima, a Bill Viola, a Joan Jonas, a Vito Acconci, e ora sono depositati a Venezia nell'archivio storico della Biennale all'ASAC. Ed erano gli anni 72, 73, 74, ma oltre a questo centro ne abbiamo avuto altri, il centro di Varese di Luciano Giaccari, anche questo un centro privato che ha documentato video performance che si svolgevano all'Attico di Sargentini, alla Galleria Comunale d'Arte Moderna, alla Triennale di Milano. Quindi abbiamo un patrimonio incredibilmente ricco, tant'è vero che Barbara London, che ha conosciuto la produzione di Artex22, in una lettera ha scritto: ma perché non lo facciamo anche noi negli Stati Uniti? Poi gli Stati Uniti hanno prodotto tanto e hanno creato musei, sezione di musei dedicata alla videoarte e al film d'artista, mentre l'Italia ha disperso questo patrimonio, non l'ha valorizzato e rimane ancora in gran parte ai privati, nel senso che non c'è stata una volontà di riconoscere questo come un patrimonio nazionale, di preservarlo, di conservarlo, di centralizzarlo e di diffonderlo. La mostra quanti artisti e artiste ospita e quante opere? Sono 360 video e film d'artista, un centinaio di artiste e artisti e 20 installazioni fra le due sedi, esclusivamente di artisti italiani. tranne Daniele Buren e Bill Viola, le cui installazioni che sono alla GAM sono state prodotte nel 74 e nel 75 da questo centro che nominavo prima di Firenze, Artepsi 22. Quindi è stata una ricognizione che ha richiesto molto studio, ci lavoro da 3 anni, anche perché, come dicevo prima, non c'è un archivio centrale dove queste opere sono conservate e quindi ogni video è un prestatore diverso, spesso sono in mano agli eredi, ma tutto questo rende il lavoro di ricerca e di reperimento molto complicato. Una volta che hai individuato il prestatore, c'è il problema di capire in che stato di conservazione trovi questo materiale e quindi devi preoccuparti di salvaguardarlo, digitalizzarlo, restaurarlo. E quindi questo dipende sempre dal problema che dicevo prima, che a parte alcune collezioni private dove trovi un determinato repertorio, tutti gli altri sono dispersi in singoli prestatori, che rende la ricerca insomma più complicata e più difficile. E io spero che dopo aver radunato questi 360 video e film monocanali possiamo depositarli in un luogo pubblico, preservarli e metterli a disposizione di altre possibili iniziative e attività. Che arco temporale coprono? Dalla fine degli anni 60 fino ad oggi. Abbiamo quindi sia i film di Mario Schifano, di Cindoli, di Macchiacci, come ti dicevo prima, che hanno fatto delle sperimentazioni una tantum, cioè il video o il film non è stato poi un mezzo, ma anche Patella, insomma, Patella forse ha sperimentato più degli altri, Baruchello, fino ai video degli anni 2000-2020, insomma, quindi di Elisabetta Benassi, di Yuri Ancarrani, Gia Casolari, Radi Martino, insomma, tantissimi altri autori e autrici, insomma, più giovani. Quindi copre un arco temporale, ci sono diverse rassegne, una di queste appunto si chiama Varia, dagli anni 90 al 2020, sarà nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni. Un'altra rassegna si chiama L'immagine dissidente, anche questa nella sala cinema del Palazzo, e raccoglie quei video di controinformazione di cui parlavo prima, cioè dedicati alle lotte e alla protesta tra gli anni 60 e 70. Quindi si chiama Immagini dissidenti. E un'altra rassegna molto rara è dedicata a Monte Olimpino, lo studio dove Munari ha fatto delle sperimentazioni filmiche legate al colore, legate insomma a forme astratte e cromatiche. Quindi abbiamo una serie di filmati che provengono da questo laboratorio. E poi abbiamo anche un'altra rassegna su film e video degli anni 60-70, sempre al Palazzo delle Esposizioni, che dà conto del passaggio di alcuni autori dal cinema sperimentale al video, quelli che ho nominato prima, Grifi e Agosti. Prima di passare al video utilizzavano la pellicola Super 8, 16 mm, anche 35, ma nel momento in cui è apparso sul mercato il video hanno abbandonato la pellicola e hanno cominciato a lavorare col video, cambiando completamente anche poetica, estetica e modi di rappresentazione del reale. E quindi c'è una rassegna dedicata proprio a questo snodo tra il cinema sperimentale e il video. Poi alla GAM abbiamo, come dicevo prima, i centri di produzione, abbiamo una selezione dei festival video più significativi che sono stati attivi in Italia, quindi ogni festival tipo Invideo, Taormina Video d'Autore, del Festival di Camerino, ognuno di loro curati da studiosi che hanno selezionato una compilation proiettata a ciclo continuo all'interno dei monitor disposti nelle sale della Galleria Comunale d'Arte Moderna. Quindi festival video, centri di produzione e anche video danza e video teatro. C'è una selezione che viene da Riccione TTV, che è un festival che esiste dagli anni 90, dedicato proprio alla produzione di video teatrali che non sono la documentazione dello spettacolo, bensì una riscrittura dello spettacolo. E video danza, cioè spettacoli di danza riscritti per il dispositivo digitale. La mostra Il Video Rende Felici, Videoarte in Italia, a Roma, Palazzo delle Esposizioni e Galleria d'Arte Moderna, dal 12 aprile al 4 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Valentina Valentini. A presto! Buonasera, grazie, buonasera, arrivederci. Con Maurizio Del Bufalo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e della rete del Caffè Sospeso per presentare il tour del regista curdo Behzi Altay in Italia dal 4 al 14 aprile 2022. Ben trovato. Buongiorno a voi, ma a tutti. Ci parli di questo progetto? Innanzitutto vi parlo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e della rete del Caffè Sospeso, che sono due reti, due iniziative ormai datate, quasi 20 anni il Festival e più di 10 anni la rete del Caffè Sospeso, e si riuniscono in questa iniziativa perché Behzi Altay, il regista di cui stiamo parlando, perseguitato dal regime turco, è stato il vincitore di una nostra edizione del Festival nel 2018 con il suo film Il Pozzo, in cui racconta la storia dei desaparecidos curdi in Turchia. È una storia molto triste, una storia di ritrovamenti delle ossa nei pozzi, quindi è un film piuttosto duro. Da quel momento abbiamo cominciato a seguire Behzi Altay, abbiamo iniziato a raccontare un po' anche i particolari della sua vita e l'abbiamo avuto in collegamento durante una storica riunione al Maschio Angioino a Napoli. Fu allora un'amica curda, Shilan Kinci, a tradurre il suo discorso nel momento in cui ci fu la recrudescenza dell'ISIS e della Turchia contro i curdi del Rojava. Quindi lo abbiamo seguito in questi anni, abbiamo seguito anche le sue cause, perché lui è stato perseguitato dal regime turco e credo abbia collezionato già un certo numero di anni di galera che dovrebbe scontare se malauguratamente dovessero andare male gli appelli che sono in corso. Per il momento lui sarà in Italia in questi 10-15 giorni e lo abbiamo invitato perché volevamo finalmente conoscerlo di persona e raccontare un po' della sua vita avventurosa, della sua vita coraggiosa. Faremo vedere due film di Behzi che sono sottotitolati in italiano, uno appunto Il Pozzo, che ha già qualche anno, e poi Nujin, La Nuova Vita, in cui racconta la storia di 3 soldatesse curde alla liberazione di Kobane nel 2015. Sono film molto belli, molto emozionanti, che useremo come occasione ovviamente per parlare di nuovo dei curdi che in questi giorni sono nuovamente soggetti a bombardamenti turchi nel Rojava, ma c'è un fine ulteriore della nostra iniziativa di cui mi fa piacere parlare, riguarda in particolare l'attività della rete del Caffè Sospeso, che è una rete di solidarietà con gli intellettuali perseguitati nel loro paese. Behzi è uno di questi. Noi intendiamo con questa iniziativa farlo conoscere in tante città d'Italia perché vorremmo sottoporlo ad una sorta di scorta mediatica, cioè una forma di protezione a distanza, perché qualora lui dovesse tornare in patria alla fine di aprile, dovessero andar male questi giudizi d'appello, noi sappiamo che le carceri turche non sono un posto sicuro e quindi vorremmo scatenare una sorta di sorveglianza dall'Italia attraverso messaggi e altre iniziative con i compagni curdi, turchi, perché il regime sappia che questa persona è conosciuta, è stimata, apprezzata e quindi in qualche modo è tenuta sotto controllo anche dall'Italia. È un'iniziativa con la quale noi ci proponiamo come rete del Caffè Sospeso anche con alcuni intellettuali bielorussi. Abbiamo iniziato da poco questa attività perché per 10 anni la rete del Caffè Sospeso si è occupata di solidarietà tra festi. Adesso invece scende proprio in prima linea perché crediamo che sia il momento di agire per difendere più direttamente i diritti umani attraverso queste persone, queste minoranze o addirittura questi singoli che sono perseguitati nei loro paesi d'origine. Quali sono le tappe? Sono 9 e sono all'Università di Salerno e quindi nel campus accademico inizieremo lunedì 4 aprile alle 10.30. Poi proseguiremo martedì 5 nel centro di Salerno alle 18. Poi passeremo il giorno 6 a Napoli all'Università Orientale nel pomeriggio alle 16.30. Ancora a Napoli venerdì 8 aprile alle 19.30 presso l'ex asilo Filangieri, dove incontreremo anche il gruppo di sostegno Kurdistan Meridione. Poi passeremo a Cagliari 2 giorni, il sabato 9 e la domenica 10, alle 7 della sera alla Cineteca Sarda sabato e domenica al centro Asce presso Selargius. Continueremo poi con Forlì lunedì 11 alle 20.45 nella Sala San Luigi a via Luigi Nanni 14 e a Faenza martedì 12 alle 20.45 al Cinema Europa. Chiudiamo poi a Trieste con l'appoggio dei nostri compagni di Linea d'Ombra, un'organizzazione famosissima perché raccoglie i profughi che vengono dalla rotta balcanica e che ci ha chiesto appunto di ospitare Behzi e saremo molto felici di chiudere a Trieste appunto mercoledì 13 all'Hangar Teatri di via Pacenco alle 19.30. Queste sono le tappe programmate. Poi credo che Daisy abbia ancora da fare qualcosa in altri paesi prima di ritornare in Turchia. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il programma che vi ho letto è già disponibile sul nostro sito ufficiale del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, www.cinenapolidiritti.it. Poi lo troverete anche in maniera diretta o indiretta sulla pagina Facebook del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Quindi avremo, insomma, un modo anche di fare pubblicità a tutte le iniziative nelle altre città d'Italia, perché abbiamo concertato questo tour di Daisy tutti insieme secondo la modalità che propone appunto la rete del Caffè Sospeso, che continuerà con queste iniziative, con altri testimoni, con altre persone perseguitate. Il tour in Italia del regista curdo Veysi Altay dal 4 al 14 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maurizio Del Bufalo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e della rete del Caffè Sospeso, che è uno dei curatori di questo viaggio. A presto! Grazie a voi, buona giornata a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.